Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Una notizia battuta poco fa ci ricorda di fatto una scadenza. Ultimo miglio prima della fine del roaming. Sabato 30 aprile arriverà il maxi taglio dei sovracosti per chiamare e navigare su internet dall'estero, in preparazione della scomparsa definitiva di quello che è probabilmente uno dei balzelli più odiato dagli europei, prevista per metà giugno 2017. Dunque, prima tappa, sabato 30 aprile, questo sabato. Parliamo invece di sanzioni. Contrariamente al parere del governo socialista francese di Manuel Valls, l'Assemblea nazionale francese ha votato una risoluzione a favore della revoca delle sanzioni contro la Russia. È accaduto questa mattina. Su 101 votanti presenti in aula, 55 hanno votato a favore, 44 contro. Insomma, un segno di un dibattito che si fa via via sempre più intenso, che riguarda le sanzioni alla Russia, il costo, evidentemente il costo sociale per le imprese. Ecco, di questo tema proprio ieri si è parlato da una prospettiva russa nel Forum Internazionale per la Cooperazione Interregionale Italo-Russo. Le regioni che chiedono di aumentare, regioni russe che chiedono di aumentare l'attività, di riportare verso l'alto l'attività economica con quelle italiane. In questo caso il Bashkortostan, la regione di Ufa, con la Lombardia stanno lavorando a un'intesa simile a quella che già la regione Lombardia ha stretto con la regione siberiana di Novosibirsk. Laura Bettini ne ha parlato col governatore di questa regione russa, Rustyom Kamitov. Sentiamolo. Siamo molto interessati alla cooperazione nel settore agricolo. Ci sono tanti imprenditori che sono aperti alla collaborazione sia sul territorio russo che su quello italiano, e ci sono tanti imprenditori russi che sarebbero disponibili a investire nell'agricoltura italiana. Se dovessimo porci questo fine, riusciremo a recuperare tantissime informazioni riguarda la partecipazione del capitale russo nell'economia europea. Quindi probabilmente molto spesso si agisce attraverso dei prestanomi residenti sul territorio europeo, ma in realtà i capitali russi sono ben attivi in Europa. Visto quanto investite nell'allacciare rapporti con l'Europa, lei pensa che le sanzioni siano destinate a finire presto? È una situazione che non conviene assolutamente a nessuno, quindi è evidente che sia il governo del nostro paese che dell'Italia in questo caso lavorano molto attivamente per cercare di sopperire a quei danni che sono stati creati da queste sanzioni. Con quali altri paesi state allacciando rapporti? Ultimamente stanno andando benissimo i rapporti con l'Austria, dove praticamente sono già partiti gli impianti per la lavorazione del legno e per la produzione di polveri chimiche che partono da materie prime presenti sul territorio. Mentre invece con le industrie francesi che sono attive nella produzione delle auto, degli aerei, degli elicotteri, i rapporti non si sono mai interrotti e continuano ad essere molto intensi. Nel settore agricolo l'Olanda tuttora fornisce le razze geneticamente pure di maiale da allevamento. Il bestiame per produzione del latte o della carne viene acquistato sia in Europa che in Australia. Tutti questi rapporti continuano ad essere abbastanza fiorenti. Sanzioni che sicuramente non convengono a nessuno, come avete sentito, ma che, bene ricordare, sono state imposte gradualmente dal marzo 2014 in risposta all'annessione illegale della Crimea, a quella che l'Unione Europea definisce la deliberata destabilizzazione dell'Ucraina. E purtroppo su questo fronte i segnali anche più recenti, proprio di oggi, non sono positivi. Infatti le agenzie battono stamattina stessa, non serve andare indietro nel tempo, che la violazione del cessate il fuoco in Ucraina orientale hanno di nuovo raggiunto il numero più alto da mesi. Questa è una fonte OSCE. Da Mosca, peraltro vista dalla prospettiva diciamo orientale, viene segnalato la morte di 5 civili, compresa una donna incinta, uccisi stamattina nel Donbass in seguito a colpi di mortaio, in questo caso esplosi dalle forze governative di Kiev. Ecco il quadro, naturalmente torneremo a parlarne. Ora invece cambiamo completamente tema, parliamo di procedure di infrazione, due dossier sulla via appunto di questo percorso che è appunto quello delle procedure di infrazione. Sentiamo. Il Programma Nazionale Italiano per la Gestione delle Scorie Radioattive è stato inviato alla Commissione Europea con 6 mesi di ritardo, invece che ad agosto 2015 a febbraio 2016. Per questo l'UE ha avviato una nuova procedura di infrazione contro il nostro Paese, ma Bruxelles nutre dei dubbi anche sul testo del programma italiano, in cui, a quanto si apprende, mancano ancora la VAS, la valutazione ambientale strategica, le considerazioni ambientali richieste prima dell'attuazione del piano e la consultazione pubblica sui siti di stoccaggio, tutti aspetti intorno ai quali, a quanto si apprende, l'Italia è ora pronta a fornire ulteriori chiarimenti. Un'altra procedura di infrazione da parte di Bruxelles, che suscita reazioni forti in larga parte dell'opinione pubblica, riguarda la legge italiana per la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, che secondo l'UE pone limitazioni eccessive al loro utilizzo, penalizzando i ricercatori italiani rispetto a quelli di altri stati membri. L'Italia è comunque al minimo storico quanto a procedure di infrazione europee. Grazie alle 6 chiusure previste dal pacchetto mensile infrazioni, l'ultima delle quali ha riguardato le buste biodegradabili, il conto delle messe in mora a carico dell'Italia è sceso da 83 a 80. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche da Gigi Donelli un saluto, ci sentiamo domani alla stessa ora. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.